sogno spesso. Poi mi scopro in difesa perché l'uomo danneggia l'ingiustizia che sovrasta il pensiero buono dell'umanità. Verità. Lasciamo che la vita sia il tuo dolce dell'armonia, dove siamo a dimenticar la grazia che Dio dona già. In ogni tempo esisterà, non ribellarti, lasciati abbracciare, lascia che Dio regni libertà, lascia che l'innocenza della vita sembra un'utopia, poi senza fede, senza chiese, nessun più si chiederà. Sopraffare dal dolore, l'indifferenza, lascia che vada come va.